75. Risotto coi piselli. Il riso, ecco giusto un alimento ingrassante che i turchi somministrano alle loro donne, onde facciano, come direbbe un illustre professore a tutti noto, i cuscinetti adiposi. Riso grammi 500, burro grammi 100, parmigiano quanto basta, una cipolla di mediocre grossezza. Il riso, come già vi ho detto altra volta, non conviene lavarlo, basta nettarlo e strofinarlo entro a un canovaccio. Trinciate la cipolla ben fine con la lunetta e mettetela al fuoco con la metà del burro. Quando avrà preso il colore rosso, versate il riso e rimuovetelo continuamente col mestolo finché abbia succhiato tutto il soffritto. Allora cominciate a versare acqua calda a un ramaiuolo per volta, ma badate che se bolle troppo ristretto resta duro nel centro e si sfarina alla superficie. Salatelo e tiratelo a cottura asciutta aggiungendo il resto del burro. Prima di levarlo dal fuoco, unitevi i piselli del numero 427 in giusta proporzione e dategli sapore con un buon pugno di parmigiano. Questa dose basterà per 5 persone.